Certamente è un successo, una vittoria, perché la lotta che i migranti hanno portato avanti ha squarciato il silenzio che stava sopra il centro Mattei, e questo ha permesso appunto a 200 persone di andare a vivere in un posto che sicuramente è meglio del Mattei, su questo abbiamo pochi dubbi, e anche evidentemente a rendere più vivibile, pensandoci 600 persone invece che 800, il centro stesso. Però appunto sa anche di rappresaglia questa scelta, questa misura della prefettura, per varie ragioni. In primo luogo per la modalità in cui è stata fatta mentre i migranti si stavano organizzando politicamente, con assemblee, con riunioni, e per partecipare insieme alla manifestazione del 14, ed è stata fatta, come dire, comunicandolo quindi senza preavviso ieri sera intorno alle 8 e mezza di sera, così una comunicazione dall'alto senza dire dove sarebbero stati trasferiti, senza discutere minimamente cose persone oggetto di cui, perché davvero trattati come pacchi postali, letteralmente come oggetti da muovere dove il prefetto o i prefetti e il governo pensano che siano più giusto che debbano stare, senza, come dire, interpellare chi è interessato a questa cosa, e naturalmente con una gestione totalmente amministrativa dei migranti che non prende in considerazione qual era la richiesta principale, e la richiesta principale era che venissero dati i documenti, che venisse iniziata, almeno avviata, la procedura di richiesta asilo, perché senza la procedura di richiesta asilo, i migranti hanno detto molte volte in questi giorni, in queste settimane, loro non possono fare assolutamente nulla, non possono avere un lavoro, non possono resistenza sanitaria, sono sostanzialmente, come dire, reti clandestini dallo Stato stesso. Quante persone vengono trasferite? Le notizie che abbiamo sono 200 persone che dovrebbero essere trasferite tra Modena, Ferrara, Reggio Emilia e altri luoghi dell'Emilia Romagna. Giusto la settimana scorsa voi sottolineavate che il Mattei può ospitare al massimo 200-250 persone, ora si alleggerisce un po', però insomma non è che poi la situazione sia rosea. No, affatto, ripeto, è proprio un modo per alleggerire la pressione e anche per dividere la lotta, ovviamente per frammentare una compattezza, un'unità dei migranti che si stava creando. E però quello che i migranti hanno voluto far sapere è che la lotta non finisce qui, il punto reale è questo, cioè la lotta inizia ora, non ci si accontenterà di questa misura palliativa da parte della prefettura, la lotta inizia ora perché nessuno ci sta a essere appunto trattato come un pacco postale da spostare dove il prefetto meglio crede, soprattutto tutti quanti dal primo all'ultimo sono convinti che la questione principale sia avere documenti, e naturalmente, come lo dicevo anche prima, nella misura comunicata dalla prefettura non c'è neanche un minimo riferimento all'avvio delle procedure di richiesta asilo, che sarebbe anche banalmente prendere le impronte digitali, no? Inizia così la procedura di richiesta asilo.